Carmelo! Oh! Sigla! Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K, da Carmelo Lauricella, da Laura Faggina e anche purtroppo da Drago. Purtroppo da Drago. Ecco. Oh. Allora, Drago, ehi. Cosa dormi? Lo sai che giorno è oggi o no? Ah sì, è grazie a Dio è venerdì. Oh, bravo, thanks God it's Friday. Abbastanza bravo. Facile, no? Sai che ore sono, Drago? 5:15. Bravo. Anche questa non era difficile. Sai cosa significa, Drago? Che comincia una nuova puntata del super premiato programma radiofonico Chiedo Asilo. Ecco che cosa significa. No, ma vedi come sei. Ma cosa vedi c'è? Come sei? Mi smonti tutta l'escalation. Avevo preparato tutta questa escalation prima di venire qua per arrivare ad annunciare ai bambini dell'asilo, ai bambini all'ascolto, insomma a tutti quanti, che la settimana sta per finire. Ecco, bravo Tito. Azzanna il padrone, fallo star zitto. Ma padrone, ma io più che padrone sono suo amico. Partner, va bene, sì. Dai. Allora, qui a Chiedo Asilo, caro K, siamo sempre stati all'avanguardia, no? Ah, beh, te lo dici da solo. Ma documenti alla mano, guarda qui, insomma, sono così. K e Drago sono sempre stati all'avanguardia. Sono costretto a dirmelo perché vedi, visto che nessun altro ce lo dice, leggo qui, leggi qui. Leggo. I figli non sono uguali, esiste il prediletto di mamma e papà. Fin dalla scorsa edizione di Chiedo Asilo avevamo già ventilato l'ipotesi che nelle famiglie con più di un figlio serpeggiasse il malcontento per i favoritismi che uno dei figli riceve dai genitori. E ora, tac, tomografia a sale computerizzata, Repubblica fa un paginone dedicato al fatto che la scienza ha dimostrato che i primogeniti sono sempre preferiti dai genitori, non si scappa di lì. Io sono terzo genito. Io sono secondo genito. Quindi siamo due sfigati. Parrebbe di sì. Ma chi lo dice? Lo dice uno zoologo. Ma come? Uno zoologo? Drago. Uno zoologo dell'Oklahoma. Ah, pure dell'Oklahoma. Sì. Cioè, ma parla di bestie o di uomini? Perché sai, nell'Oklahoma. Non cosa? È che... Nell'Oklahoma. L'Oklahoma ne avranno di bestie da studiare, compresi gli abitanti dell'Oklahoma. Vabbè, Oklahoma City, non hanno fatto quell'attentato. Esatto, anche vedi. Quello. Però questo zoologo di Oklahoma dice che uomini e bestie sono la stessa cosa, almeno in Oklahoma. Lui ha studiato i pinguini e ha tratto le conseguenze anche sugli uomini, no? I pinguini, i famosi pinguini dell'Oklahoma. Ma cosa vuoi che ti dica, capa? Tu fai troppe domande, no? Con te non si può mai fare un discorso serio perché interrompi sempre a chiedere. Vabbè, sono curioso. Ma in questo mondo postumo, post tutto, post moderno e post post moderno, farsi domande retoriche equivale solo a perdere tempo, a farsi sangue amaro. Quindi adesso lasciami finire. Allora, il pinguino si prende cura dell'uovo più grande, il primo, e lascia perdere le altre, le uova più piccole. Il pinguino però è una specie di talebano assolutista, non si fa tante domande. Lui prende l'uovo migliore e degli altri si dimentica. Capito, vabbè, cos'è? Cioè, non considera che l'uovo più grande potrebbe comunque rompersi o essere preda di qualche animale feroce, mentre l'aquila, che vede più lontano del pinguino, vabbè, per forza è un'aquila, no? Va bene, allora l'aquila tiene anche le uova più piccole perché non si sa mai. Però allora quello che è chiaro agli studiosi è che i secondi nati sono soltanto una specie di assicurazione per l'aquila, sì, cioè se va male col primo. Ma vabbè, Drago, ma sono aquile e pinguini, cioè, ma lo zoologo dice che siamo uguali. Piccioni, scusa, ma chi? È lo zoologo. È lo zoologo, ma che? Ma cosa ne sanno le aquile e i pinguini di quello che vuol dire avere un figlio per noi umani? Cosa mica, c'entra? Ma sono mica uova. Cioè l'aquila mica passa 9 mesi trattata come una santa malata come le madri, ma no? Le dici? Madri umane. Come sembrano delle sante malate gravi. Sante malate gravi. Sì, che vanno indietro, avanti, indietro dagli ospedali, fanno le ecografie, i filmini del feto, le registrazioni del cuore. Vabbè, fanno ciao ciao al feto, quelle robe lì. Il feto che fa ciao ciao. I pinguini e le aquile non hanno la suocera che comincia a mettere il bambino al centro del universo mesi prima della nascita, fa la cameretta rosa, azzurra, poi però non sanno manco la suocera. Poi per caso, scusa, hanno il problema di trovare il posto all'asilo nido per le uova? Semmai nel cestino delle uova di Pasqua. E i soldi per l'università dei figli, signor pinguino? Che università fa frequentare la sua figlia? No, Tito, sei tu che... Vabbè, ormai ho perso il filo, c'era tutto un discorso serio da fare, ma ormai l'hai buttata sul ridicolo. Il filo dell'aquila, del pinguino. Te l'ho detto, mi pagano per non essere serio, Drago. Se lo fossi, non sarei serio nei confronti dei miei datori di lavoro. E cioè, questo asilo e il suo celebrato amministratore delegato... Farebbero bene a non pagare. Oh, e invece, siccome non mi pagano, c'è qualcosa che non funziona nel mio ragionamento. A proposito, ma l'amministratore delegato ha più protestato per la segreteria? No, non si è più fatto sentire, mi sembra. Proviamo a sentire qualche messaggio però, dai. Gildo, Gildo, caro amico. No, questo non Kappa e Drago sono due zozzoni. Non si può far prima con Gildo. Com'è? Ed il testo viene a tronconi. Gildo, Gildo, poveretto. Aspetta. Con l'amico un po' bischeretto. Però fa solo, bambino Alberto, solo un ritornello. Parla sempre come se piovesse avesse il culo scoperto. Yeah. No, questo non era l'amministratore delegato. La canzone che hanno lasciato lo 0246524495, la nostra segreteria telefonica. Però avrei solo un piccolo appunto. In realtà c'è una rima con Gildo. E ora, bambini, ricreazione! Questa è la prima pagina del mio diario. È un diario audio, È un audio diario. Ieri ho preso un sacco di botte dai miei genitori. Perché loro mi dicono sempre che devo interessarmi di quello che succede nel mondo, di leggere i giornali, guardare il talk show politici, per prendere consapevolezza, no? Del cittadino, Che non è che posso stare lì a passare il tempo solo con le stupidaggini da bambini. Da bambino viziato. Ieri sera eravamo a tavola con i miei genitori, io e mio fratello. E i miei genitori, come sempre, tutti infervorati, stavano discutendo di qualche fatto politico, no? E non ci guardavano neanche a me e mio fratello. A un certo punto li ho interrotti dicendo che anch'io avevo qualcosa da dire. Perché avevo letto un articolo su uno dei loro giornali, no? I loro giornali schierati. E quindi mia madre, felice come una Pasqua, mi ha subito portato una porzione gigantesca di torta al cioccolato. E mi ha carezzato la testa come non faceva dai primi giorni post-parto. E quindi mi fa: Albertino, mangia prima la fetta di torta, che poi ci racconti, Quindi dico: uè, mangia la fetta di torta, e mi è tutti contenti, fieri di me, perché dicono: uè, finalmente è un bambino che parla di cose serie. Quindi ho cominciato a raccontare che il sindaco di un paese del nord aveva negato il pasto ai bambini che non avevano pagato la retta della mensa. Quindi questi che non hanno pagato hanno avuto un mini panino e un succo di frutta, mentre gli altri mangiavano piatti di pasta, carne, patate. Ancora prima che finissi di parlare, i miei genitori si sono indignati, hanno cominciato a urlare insulti verso quel fascista sindaco e i bambini poveri, la Lega, Berlusconi, bla bla bla, tutte le robe da comunisti. Comunque finisci, mi dicono. Quindi io, appena ho fatto sommessamente notare che il sindaco in questione era di sinistra, ho visto la faccia di mia madre trasfigurata, con una smorfia innaturale. E un attimo dopo ho sentito un colpo sordo sulla nuca e sono svenuto. Quello era mio padre, che mi ha colpito con un manganello di gomma dura, di quelli che non lasciano i segni, quelli che usava la polizia degli anni 70. Come ti permetti di gettare fango su persone rispettabili? E poi tu sei un bambino! Non ti devi interessare di cose per adulti! Ma come? Ma se mi avete detto un momento fa che dovevo informarmi e la consapevolezza? Aia! E bla bla bla! Aia! E cittadino modello! Aia! Ma allora quando sono comunisti? Aia! Ma basta! Venerdì, salutiamo e ringraziamo. Un saluto da K, da Drago, da Carmelo Lauricella, da Laura Fagin, da Alberto Caserini, da Tommaso Barbello. Basta. No, non c'è più nessun altro. Allora, l'ascoltatore prima si lamentava che il testo da scrivere Gildo non fa rima con niente. Noi suggeriamo che c'è almeno una parola che fa rima con Gildo. Potete usarla e cantarla allo 02 46 52 44 95. Ma usarla in che senso?